Vuela da mi anna, un dai ciò di stavi si gza, znelli a si bnereši si aruli, agram, zin, kelis, issinatle, romlisken, idihar. Romlisken.